Roma sarà beatificato Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Lei come lo ricorda? Lo ricordo assolutamente come una persona splendida. Sono indeciso se dire che però il dimenticato Giovanni XXIII, che è stato un papa splendido, davvero, quello del Concilio, diciamo, o Giovanni Paolo II, sono quelli che vanno come persone, come presenza umana, state più efficaci. Ma contrariamente ad alcune cose che leggo, oscurantista, eccetera, questi sono gli ideologi che vanno a guardare l'ideologia, certo polacca, di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II era parola, non chiacchiera. E come tutti coloro che sono parola, lui parlava orizzontalmente a tutti, non verticalmente. Lui era davvero un personaggio straordinario. Poi la santificazione, almeno la beatificazione, queste sono cose che evidentemente mi fa piacere, ma naturalmente alcune critiche di questi giorni. Lo ripeto, oscurantista. Certo che nei contenuti lui ha ripreso contenuti polacchi, italioti, eccetera. Un po' controriformisti, ma la sua testimonianza è stata assolutamente invece un'altra. D'altra parte, credo che posso dirlo senza millantare, questo anzi glielo devo di dirlo, io l'ho conosciuto da vescovo, perché quando lui è cominciato a venire in Italia da vescovo, mi guardava la notte a Teleroma 56 e ha voluto conoscere. E il rapporto è continuato sempre. Quando fu eletto dissi io, pare che Dio ce l'ha dato, comunque guai a chi me lo tocchi. Grazie, grazie a Marco Pannella, in bocca al lupo.